Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Strade e Motori. Anche oggi una puntata ricchissima di ospiti, di collegamenti. Insomma, cercheremo di tenervi informati su tutto ciò che accade nel mondo, nell'universo della mobilità. D'altronde, il nostro sottotitolo è Il Mondo in Movimento. Ancora grazie per l'affetto e per l'interesse che ci state dimostrando settimana dopo settimana. I vostri interventi, le vostre segnalazioni al nostro indirizzo email stradeemotori@radio24.it continuano ad essere graditissimi. Allora vediamo cosa prevede il sommario del numero di questa settimana. Parleremo di un problema che comincia ad interessare il nostro paese in maniera sempre più evidente, quello dei ricambi falsi o falsificati stanno per invadere il mercato, e quindi c'è da fare grande attenzione soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle nostre vetture. Poi approfondiremo un tema molto interessante, quello del mobility management, ovvero di tutte le persone, questi mobility manager, che si occupano o si dovrebbero occupare all'interno delle nostre aziende o delle varie aree, delle varie realtà amministrative, di facilitare i nostri spostamenti quotidiani. Ma partiamo da un argomento che è davvero all'ordine del giorno. Partiamo infatti dalle vetture elettriche. E dunque parliamo di macchine elettriche, se ne parla tantissimo e da mesi, forse da anni, ma spesso lo si fa con enunciazioni un po' generiche, no? Di principio, senza fare troppo, come si dice, i conti con l'oste, cioè senza valutare costi e benefici di questa soluzione, che fa sicuramente bene all'ambiente, anche se non tutti pure su questo sono d'accordo. È arrivato dunque il momento di approfondire l'argomento con il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Buona domenica a voi. Nel tuo blog di questa settimana, seguitissimo sul sito di Quattro Ruote, racconti di esserti chiarito un po' le idee su quanto costerà mantenere un'auto elettrica. Quanto costerà allora, direttore? Ma dunque, bisogna capire che l'auto elettrica significa non soltanto una propulsione diversa, alternativa, ma proprio un diverso modo di intendere l'automobile, perché abbiamo già le prime cifre. Per esempio, sappiamo che la Smart elettrica che verrà proposta anche in Italia, anche se in numeri limitati, già nella seconda parte dell'anno, avrà da parte del fornitore energia, che sarà l'Enel, una tariffa cosiddetta flat, quindi si pagheranno per energia 25 euro al mese, indipendentemente dal numero dei chilometri che si faranno. È un po' il sistema che si usa con gli abbonamenti a internet o dei telefonini, no? E quindi già questo è una rivoluzione evidente, perché uno è abituato a fare rifornimento a seconda del chilometraggio che poi gli capita di fare. E teniamo conto che cambia, perché anche la manutenzione sarà completamente diversa, perché certo, Non c'è olio, non ci sono molte materiali soggetti a usura, e oltretutto le macchine elettriche verranno non vendute ma noleggiate, quindi non è solo il motore, è veramente un modo diverso di intendere la mobilità personale. Direttore, ma questa convenienza che hai sottolineato non può, come dire, mettere in allarme i produttori di petrolio, ad esempio, che potrebbero fare lobby e cercare di bloccare la diffusione di queste vetture così convenienti, appunto? Ovviamente lo speriamo, perché questa dittatura del petrolio è stata un grandissimo problema per l'automobile. Sappiamo anche quanti quattrini hanno fatto i petrolieri imponendo dei prezzi che molto spesso, insomma, al di là delle tasse che ci sono sulla benzina, ci sono sembrati prezzi veramente esosi. Il problema all'inizio sarà che però bisogna tenere la macchina per un certo numero di anni, perché è vero che l'energia costerà poco, però è vero anche che il prezzo della batteria iniziale è comunque un prezzo piuttosto alto, decisamente superiore a quello di un motore a combustione interna, insomma. E quindi per un po' di anni ancora non sarà proprio subito conveniente in termini economici. Lo diventerà nel momento in cui, appunto, si produrranno non più qualche decina di migliaia, ma milioni di motori, appunto, con le batterie, e queste diventeranno di uso comune e non soltanto dei prototipi come saranno in una fase iniziale. Andando a quantificare, direttore, quando le troveremo sul mercato queste auto e a che punto è la ricerca? Allora, queste auto saranno sul mercato, come dicevo, sostanzialmente dall'inizio del 2011. Le prenotazioni sono già cominciate per alcuni modelli, ma di fatto le consegne arriveranno all'inizio del 2011, che per il mondo dell'automobile vuol dire veramente domattina. Dopodiché, come dicevo, le batterie stanno progredendo molto, adesso veramente tutte le case stanno spendendo soldi per sviluppare queste batterie, avere dei modelli sempre più con un'autonomia sempre maggiore e soprattutto con dei tempi di ricarica sempre più brevi, e quindi quello che si pensa è che a partire dal 2015 queste macchine elettriche saranno veramente competitive, e già nel 2020 si pensa che a livello mondiale una macchina su 10 sarà elettrica. Siccome il mercato mondiale è fatto grosso modo di 60 milioni di macchine, pensare di immatricolare in un anno 6 milioni di macchine nel mondo significa già avere qualcosa che dal punto di vista industriale comincia a essere molto significativo. Direttore, sul tuo blog hai lanciato diversi quesiti ai tuoi lettori, cercando anche di sollecitare la loro curiosità per dare delle idee alle case costruttrici. Risposte? Ma devo dire che c'è un grande interesse su questo tema, anche se c'è un grande scetticismo, perché poi teniamo conto che ovviamente il nostro è il blog di quattro ruote, e quindi molti dei nostri navigatori hanno, diciamo, un certo affetto, chiamiamolo così, per la tradizione del motore a combustione interna, perché insomma i motori elettrici sono praticamente in una fase di sviluppo veramente intenso adesso. Il motore a combustione interna, diesel o benzina che sia, viene sviluppato ormai da 100 e più anni, e quindi evidentemente ha dato delle prestazioni a cui sembra difficile rinunciare. Quello che però io consiglio è, quando ci sarà l'occasione di provare queste automobili, di provare, perché a me per esempio è stata data per un giorno la Mitsubishi elettrica, la cosiddetta MIEV, che arriverà appunto anche questa sul mercato a fine anno, e devo dire che io l'ho trovata entusiasmante. Sono macchine per la città, questo deve essere chiaro, non sono macchine per andare da Milano a Roma, però per fare dei tragitti nell'ambito di, diciamo, dei 100-150 km al giorno, sono macchine assolutamente silenziose, che hanno una ripresa, come si dice, eccezionale, perché il motore elettrico sprigiona subito appunto la coppia, quindi non c'è bisogno di aspettare, e quindi sono macchine di cui insomma, che si guidano veramente con grande gioia. Siccome, come dicevo, siamo all'inizio dello sviluppo, io mi aspetto che ovviamente i motori a benzina e a diesel continueranno ad esserci, ci mancherebbe altro, e saranno sempre validissimi, però penso anche che il motore elettrico sarà una bella alternativa. Quindi, prima di dare dei giudizi, consiglio a tutti di provare le macchine appena saranno disponibili. Direttore, volevo lasciarti con una battuta, ma a questo punto mi hai anticipato. Volevo chiederti se prima o poi nel tuo box, nel tuo garage, arriverà un'auto elettrica. Mi sembra di capire proprio di sì. Ma guarda, io devo dirti che per gli spostamenti brevi lo trovo assolutamente ragionevole. Credo che tra l'altro la politica delle amministrazioni pubbliche, volenti o nolenti, sarà sempre più restrittiva, così come stiamo vedendo proprio in queste settimane, e quindi è ovvio che si tenderà sempre di più a privilegiare i veicoli a emissioni zero, e visto che l'idrogeno è ancora molto lontano, l'elettrico è l'unica cosa che noi abbiamo a portata di mano, e che proprio prima non è soltanto un propulsore nuovo, è veramente un modo nuovo di intendere l'automobile, attorno al quale secondo me nasceranno anche molte idee che potranno aiutare le macchine, diciamo, più tradizionali. Quindi è una ventata di freschezza che, indipendentemente dal successo o meno dell'elettrico, secondo me farà bene a tutto il settore dell'auto. E con questo entusiasmo di Mauro Tedeschini noi ci salutiamo. Direttore, appuntamento alla prossima settimana, grazie. Buona domenica ancora. Sono sempre di più le notizie di cronaca che arrivano in questi giorni e che raccontano di enormi sequestri di pezzi di ricambio falsi per autovetture, pezzi di ricambio che arrivano dalla Cina o da altri luoghi dell'Estremo Oriente e che sono pronti ad invadere il mercato italiano. È un problema vero, effettivo, vogliamo parlarne con il presidente di Adira, l'associazione che riunisce i distributori indipendenti di ricambi auto, Bruno Beccari. Buona domenica, presidente. Buona domenica a lei. Dicevamo, un problema grave, importante, e che può avere risvolti per quanto riguarda la sicurezza dei nostri veicoli. Quanto è diffuso in Italia il giro di ricambi auto falsi o falsificati, presidente? In Italia il giro di ricambi falsi o falsificati è un fenomeno ancora, per fortuna, non riteniamo troppo diffuso. Io farei una diversificazione fra i falsi, diciamo in termini di qualità, piuttosto che la falsificazione di marchi, la contraffazione di marchi. Certo. Perché è molto importante. Per quanto riguarda la contraffazione di marchi, è un fenomeno questo che si verifica da sempre, da parecchi anni, soprattutto la falsificazione era prima effettuata nel bacino, diciamo, del Mediterraneo, nel vicino Medio Oriente, adesso chiaramente si sta estendendo molto ai paesi, ai grandi paesi emergenti tipo Cina e tipo India. Era un fenomeno che riguardava soprattutto i grandi marchi, ne cito qualcuno, Bosch, diciamo Valeo, diciamo famose erano le candele Champion, sì, o le pastiglie freno Ferodo in passato. Chiaramente il fenomeno di falsificazione di marchi esiste sicuramente, da noi ha sempre avuto una valenza abbastanza limitata e diciamo si è riusciti con azioni legali a stroncarlo, a limitarlo. Quali sono i pezzi di ricambio più falsificati? I pezzi di ricambio più falsificati sono sicuramente quelli che noi chiamiamo i pezzi di grande consumo, i fast movers. Perciò metta candele, metta filtri, metta pastiglie freno, metta dischi freno, questi sono, una volta erano e anche adesso i dischi frizione, anche se adesso si cambiano un po' più di rado, certo, gli ammortizzatori, questi erano i pezzi sicuramente sui quali si concentra la falsificazione o la contraffazione. Da dove arrivano, Presidente, e soprattutto come arrivano alle officine? E qui immaginiamo, tocchiamo un tasto dolente, perché lei rappresenta i distributori, che immagino abbiano anche un ruolo, insomma, quelli con meno scrupoli, ecco. Da dove arrivano? Sicuramente arrivano dai paesi in via di sviluppo, dei paesi emergenti, dei paesi in cui si produce chiaramente a basso costo. E diciamo che uno dei bacini fino a qualche anno fa era sicuramente la Turchia, ad esempio, un paese che per lungo tempo ha fatto e ha fornito pezzi di contraffazione. Adesso chiaramente arrivano o possono arrivare dai grandi paesi, dai grandi mercati tipo Cina e tipo India, dove non esistono regolamenti e dove la contraffazione è un fatto non soltanto nel nostro mercato, ma anche per altri pezzi è un fatto oramai assodato. I controlli sono anche minori. Strade e motori. Strade e motori. Eccoci ancora insieme, seconda parte di Strade e Motori su Radio 24. Siamo sempre in linea con Bruno Beccari, presidente della DIRA, l'associazione che riunisce i distributori indipendenti di ricambi auto. Presidente, le stavamo chiedendo come arrivano questi ricambi, questi accessori, poi nelle officine italiane. Ma le ripeto, il fenomeno in Italia è ancora limitato. Io penso molto molto limitato e molto controllato. Faccio un passo indietro, nel momento in cui è esplosa la Cina, nel momento in cui è esploso il mercato in Cina e la produzione di particolari in Cina, chiaramente abbiamo assistito a una corsa degli operatori di mercato a scegliere, a cercare di trovare prodotti a costo più basso del nostro, e in modo da importarlo e chiaramente poter fare del business. Questo ha dato luogo a delle importazioni di pezzi, diciamo, non importanti dal punto di vista sicurezza, mi riferisco in particolare alle lampadine, no? Inizialmente c'è stato questo importazioni soprattutto, ecco qua metterei l'accento, soprattutto c'è un'importazione, credo, di accessori più che di ricambi veri per auto, e gli accessori, a parte che non incidono chiaramente sulla sicurezza del veicolo, ma sui quali bisognerà e bisogna prestare molta attenzione, perché questi riguardano un po' la salute degli individui, cioè non controllati possono essere prodotti con materiali che possono portare, certo, anche problemi di salute. Per cui gli accessori sicuramente è un fatto importante. Ricambi veri e propri penso che sia ancora un mercato limitato. Per concludere, Presidente, cosa può fare l'automobilista se e quando si rende conto che vengono utilizzati accessori e ricambi falsi? L'automobilista credo che non debba solo limitarsi a guardare il prezzo, ma debba chiedere alla sua officina, di manutenzione e di riparazione, credo che debba chiedere dei preventivi molto specifici e farsi rilasciare i documenti, la fattura, che è l'elemento determinante, poi domani, per poter rivalersi nel caso succeda qualche cosa. Allora, grazie al presidente Bruno Beccari, presidente di ADIRA, l'associazione dei distributori indipendenti di ricambi auto, consigli molto importanti e assolutamente da seguire. A presto, presidente, buona domenica. Grazie, di nuovo buona domenica a voi tutti. Ora tutte le news in pillole della settimana e poi parleremo di mobility management. È stato un mese di gennaio brillante, quello appena trascorso, per il mercato dell'auto in Europa. Complessivamente le immatricolazioni sono state 1.085.000, il 13% in più rispetto a un anno fa. In Italia l'aumento è stato ancora più consistente, del 30% rispetto al gennaio 2009. Il 25% degli automobilisti italiani non saprebbe sostituire un pneumatico bucato alla propria vettura. Oltre 9 milioni di italiani, secondo un sondaggio commissionato da assicurazione.it, ammettono di non essere in grado di effettuare neanche un semplice cambio di una ruota, evento che capita 2-3 volte durante una vita automobilistica. Un quarto del totale ammette che, in caso di pneumatico bucato, chiama in soccorso addirittura un carro attrezzi. È nato l'Osservatorio Nazionale delle Autonomie Locali sulla Sicurezza Stradale. Attraverso questo organismo, i comuni e le province italiane si pongono come priorità la lotta all'insicurezza sulle strade del nostro paese. Secondo gli ultimi dati, ammontano a 30 miliardi di euro i costi sociali per gli incidenti stradali ogni anno. Eppure, proprio da un sondaggio condotto dall'Osservatorio, emerge che il 92% degli italiani promuove la propria capacità di guida. Si svolge giovedì a Bologna la 10ª conferenza nazionale sul mobility management, ovvero la gestione della mobilità. Ne parliamo con il direttore scientifico di Euromobility, che è l'associazione che organizza questo importante appuntamento. Lorenzo Bertuccio, che è in collegamento con noi. Buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Innanzitutto, Bertuccio, anche per chiarirci un pochino le idee, che cos'è e chi è il mobility manager e che tipo di compiti ha? Il mobility manager è un collega che in un luogo di lavoro si preoccupa dello stress, dei problemi quotidiani dei propri colleghi che si recano quotidianamente sul luogo di lavoro e cerca soluzioni alternative per alleviare lo stress quotidiano. Dalla loro introduzione, più o meno una dozzina di anni fa, se non ricordo male, i mobility manager che tipo di risultati in concreto hanno ottenuto? La situazione nelle aziende o nelle aree dove sono attivi è migliorata secondo voi? Decisamente sì, nelle aree dove ci ha creduto anche tanto la pubblica amministrazione, nel senso dove una figura che è definita mobility manager di area ha sollecitato le aziende, le ha messe in rete, gli ha creato le condizioni per lavorare bene. Parliamo in particolare di Parma o di Brescia, dove i risultati sono tangibili. Abbiamo tanti cosiddetti piani di spostamento casa lavoro, tanta gente che ha riconquistato l'uso dei propri piedi o della bicicletta per andare al lavoro o che si è rivolta più frequentemente al trasporto pubblico o al carpooling, l'uso condiviso dell'autovettura privata. Ecco, appunto, quali sono gli strumenti che utilizza abitualmente un mobility manager per agevolare i colleghi di lavoro piuttosto che i cittadini, se si tratta di un mobility manager pubblico, a, come dire, utilizzare un tipo di mobilità più sostenibile? Beh, innanzitutto una serie di azioni di comunicazione, perché molto spesso è un problema culturale ed è quello che va scardinato, quindi provare a convincere il dipendente o il cittadino che appunto i propri piedi o la bicicletta sono un modo molto più intelligente, economico e salutare per recarsi al lavoro, ma anche attraverso contributi, incentivi economici proprio per l'acquisto delle biciclette, per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto collettivo o creando delle forme di ricerca del compagno di viaggio per usare la propria autovettura in condivisione con i colleghi anziché da soli. Ci va qualche esempio, ce l'ho accennato velocemente, magari entrando un po' più nello specifico, qualche esempio di azienda o di area, città, provincia, regione dove i mobility manager hanno, come dire, funzionato meglio, hanno ottenuto migliori risultati? Una su tutte è la città di Parma, dove ci sono 40 mobility manager operativi, 33 di questi sono veramente attivi, hanno fatto piani di spostamento con incentivi appunto alle biciclette, per cui il dipendente può acquistare ad esempio una bicicletta pedalata assistita con trattenuto in busta paga senza oneri aggiuntivi, per cui una bicicletta che costa 1000 euro riesca a pagarla nell'arco di 1 o 2 anni. Ho l'abbonamento al trasporto collettivo, lo pago un terzo perché un altro terzo ce lo mette il comune, un altro terzo la mia azienda. Addirittura c'è qualcuno che ha inventato il distributore del pane in azienda per evitare che tu debba successivamente all'orario di lavoro recarti a far compere, a far spesa in panetteria, certo. Uno che ha il mobility manager indaga in qualche modo i bisogni del dipendente, del cittadino e cerca di trovare soluzioni, servizi e prodotti per soddisfare questi bisogni, facendo in modo che non generino poi esigenze di mobilità con l'autovettura privata. E quali sono invece gli ostacoli e le difficoltà che il mobility manager oggi del 2010 incontra e che sottolineerete, immagino, anche giovedì a Bologna? Beh, una mancanza sicuramente di attenzione da parte dei governi, degli ultimi governi rispetto al periodo in cui è stato istituito. Non abbiamo più né interventi, come dire, estemporanei, quindi stiamo parlando di soldi, esatto. Arriviamo lì. Sì. Diciamo che nei primi anni ci sono stati 7,2 miliardi delle vecchie lire che sono state destinate al mobility management nel 98, successivamente 30 miliardi di lire ancora per il settore. Negli ultimi anni questo non è avvenuto, ma al di là dell'intervento spot, a nostro avviso c'è bisogno di qualcosa che incentivi di più le aziende, un credito d'imposta ad esempio, per far sì che l'azienda che spende per un piano spostamento casa lavoro riesca a recuperare questo impegno economico successivamente, o anche interventi del legislatore sul testo unico delle imposte sui redditi. Oggi io come azienda non posso erogare contributi per l'acquisto di biciclette o di abbonamenti se non limitatamente a poco più di 250 euro all'anno come cessione di beni e servizi. Insomma, ci sono una serie di azioni sul piano fiscale e finanziario che possono essere messe in campo per agevolare le aziende e far sì che abbiano un interesse oltre al classico ovviamente della responsabilità sociale d'impresa, che oggi comincia ad essere uno dei capitoli importanti insieme alle certificazioni ambientali. Oggi se io voglio essere certificato devo avere un mobility manager. Certo, tutti i problemi che sottolineerete, come detto, giovedì a Bologna per la 10ª conferenza nazionale sul mobility management. Grazie a Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility. Buona domenica e buon lavoro. A presto. Buon lavoro anche a voi. È tutto per questo appuntamento con Strade e Motori. Vi ricordo che sul sito www.radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni, potete anche approfondire gli argomenti che tocchiamo tutte le settimane. Se avete voglia di scriverci, fatelo pure, il nostro indirizzo email è stradeemotori@radio24.it. Continuate a raccontarci anche le vostre storie di mobilità quotidiana, le strade che percorrete ogni giorno per andare a scuola o al lavoro, i problemi, gli incontri che vi capita di trovare sul vostro percorso. Grazie allora per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento in compagnia di Radio 24.